e terraferma. E desidero dare una motivazione specifica che riguardi la feudalità per questa distinzione. Mentre il Mezzogiorno d'Italia rappresentò durante l'età normanna la porzione territoriale dello Stato in cui la nobiltà feudale di vecchio o di recente insediamento resistette al tentativo degli Altavilla di instaurare uno stato non feudale, la Sicilia, strappata agli arabi, consentì la strutturazione di una monarchia fondata sulla burocrazia e la presenza di una feudalità introdotta dai normanni stessi nell'isola ebbe sempre una qualità giuridica che ne rendeva compatibile la simbiosi con l'assolutismo regio. Chiarisco, i feudatari siciliani esistono anche al tempo dei normanni. Bisogna vedere di che feudatari si tratti e se questa feudalità presente nell'isola faccia dell'isola uno stato feudale. Ricordo a questo proposito quello che scrisse Caen e che mi pare ancora validissimo, la presenza di una feudalità non basta a rendere uno Stato feudale. Per questi motivi, l'esame della feudalità siciliana nei secoli XI-XII e per quello che ci riguarda questo pomeriggio, nella prima metà del XIII, riveste un particolare interesse. Il Caen, che ho adesso citato, scrisse che l'Italia del Sud ebbe lo strano privilegio di ricevere e fondere le due influenze più contrastanti che abbia potuto produrre il mondo del secolo XII, la feudalità nella forma più perfezionata e quella dello Stato-potere pubblico nella sua forma meno feudalizzata. Noi dunque, questo pomeriggio osserveremo questo fenomeno nella zona in cui appare più evidente proprio questa seconda componente, cioè lo Stato-potere pubblico nella forma meno feudalizzata. E pertanto si tratta di un aspetto che appare più notevole sotto il profilo dell'ammodernamento dello Stato. Inoltre, lo osserveremo durante il regno di un autocrate, quale fu il secondo re svevo di Sicilia. Lo schema, pertanto, è il seguente. Dai lineamenti di struttura normanni all'età di Enrico VI, con speciale riguardo ai feudi maggiori. Seguiremo successivamente le vicende dei feudi maggiori nell'età di Federico, allargando poi l'esposizione in direzione dei feudi minori. La nostra guida saranno in primo luogo i documenti, in secondo luogo la legislazione. Quanto ai lineamenti di struttura normanni, mi limito ad accenni brevi. La consistenza delle terre infeudate nell'isola fu ritenuta minima dalla Fasoli e in base soprattutto ad una ragionevole considerazione di ordine politico. Cioè nessun feudatario siciliano esercitò profonde influenze nella vita del regno. Liperi, dal canto suo, in un articolo successivo chiaramente polemico nei riguardi della Fasoli, ha accuratamente individuato i territori siciliani che risultassero infeudati e ha inoltre elencato ben 7 contee esistenti nell'isola al tempo dei normanni, pur riservandosi alcuni dubbi per due di esse. Tali elementi dimostrerebbero, a giudizio del Peri, come la feudalità in Sicilia avesse durante il tempo degli Altavilla un peso ben più rilevante di quanto ipotizzato dalla Fasoli. Ora, mentre nulla c'è da obiettare riguardo la individuazione dei feudi di minore estensione, che sono quelli cui maggiormente si è dedicato Imperi, restano delle perplessità circa quella che abbiamo chiamato qualità giuridica di detti feudi. Basterebbe citare brevemente il carattere giuridico di donazione remuneratoria nei confronti delle chiese. Quando si parla di donazioni che vengono fatte pro anna, ad meio patris mei, sono chiaramente donazioni remuneratorie, insomma è il regalo che si fa al medico arrivati per Natale quando non si è voluto far pagare. Esprimo in forma comune un concetto giuridico, ma non è l'investitura feudale che richiede il servizium. Riguardo poi il problema costituito dalle contee, e che in fondo è quello più vicino alle argomentazioni della Fasoli, la quale evidentemente quando parlava di peso politico non poteva volersi riferire a territori piccoli o spopolati, la mia opinione diverge da quella di Peri. Ho cercato di condurre accuratamente anche sul piano giuridico un esame che mi ha condotto ad affermare che in epoca normanna e fino al regno di Guglielmo III non si riscontrano nell'isola contee istituite dal sovrano come tali, né titoli di conte seguiti da un genitivo che designi il toponimo da cui la contea prenderebbe nome e consistenza. Per completezza di informazione devo dire che già stampato il mio lavoro su questo argomento ho visto un riferimento ad un diploma di Tancredi, o meglio in cui compare Tancredi di Siracusa, in cui invece ci sarebbe un riferimento del genere, ma devo ancora vedere addirittura di che si tratti. Per ora la mia ipotesi rimane quindi valida. E solo durante il regno di quest'ultimo infelice ragazzo, l'ultimo degli Altavilla, che compaiono conti e contee ricadenti nel suolo dell'isola. Anteriormente a quell'epoca, la politica antifeudale dei sovrani e di alcuni loro ministri aveva evitato la creazione di vasti domini, o almeno la unione di essi ad una dignità che avrebbe potuto riprodurre i fenomeni disgregatori già verificatisi in altri paesi. Non voglio ripetere qui, ma solo accennare, mi rivolgo in particolare alla signora Trombetti, di cui la signorina Fasoli ci diceva che si occupa di documenti estensi a proposito di feudi, il problema dei feudi di dignità, in cui il beneficium nasce, si direbbe, dalla dignità comitale, si unisce alla dignità e si instaura un problema che non è neanche di facile soluzione. Sono perciò propenso a trarre da tutto ciò una riprova della non feudalità del regnum e in particolare dell'isola di Sicilia. Se mi si chiedesse per chiarezza quale stato allora si dovrebbe considerare feudale in modo che non ci fossero dubbi, risponderei senz'altro il regno di Gerusalemme. Mi pare il tipo più chiaro di stato feudale. Espressione questa della non feudalità che si riferisce non tanto alla quantità delle terre demaniali, quanto al fatto che il potere dei feudatari appare limitato, specie dopo la fondazione della monarchia, da una rete di ufficiali regi che estendono la loro competenza entro gli ambiti feudali e, secondo il De Vergottini, costituiscono per questo motivo il principale strumento di superamento dello Stato feudale. Superamento che peraltro noi possiamo osservare anche nelle assise regie, come per esempio in quella Scire Volumus di Ruggero. La presenza di una feudalità in ogni modo richiedeva strutture adatte, soprattutto di controllo, considerato il carattere della monarchia come abbiamo cercato di definirlo stamane. Così, mentre già ai tempi del Gran Conte erano in uso le platee, contenenti gli elenchi dei servi e dei villani appartenenti alle varie terre, tanto demaniali che feudali, subito dopo la instaurazione della monarchia assunse una sua fisionomia la duana, l'abbiamo già detto. Ripeto che tra gli altri compiti aveva quello del controllo dei confini sulle terre e di custodire i defetari. Abbiamo accennato stamane a questo termine, adesso diciamo qualche cosa di più. Non si sa se fossero i registri in cui veniva descritto tutto il territorio dell'isola, questa è l'opinione del Caravale, oppure solo le terre demaniali, questa è l'opinione del Garufi. E tale problema a me appare strettamente connesso con quello della Duana Baronum, o Secretos Tona Pocopon, che non riprendo adesso perché è stato accennato stamattina. Mi limito solo a ricordare che mentre per il Garufi essa duana sarebbe il dicastero preposto agli affari feudali, per il Caravale costituirebbe l'esatto simmetrico della duana de Secretis, ma con competenze per il mezzogiorno della penisola. L'avvento di Enrico VI restrinse l'attività della duana de Secretis al territorio dell'isola. Abbiamo visto stamattina, ritornano i maestri camerari nel mezzogiorno d'Italia, mentre al tempo stesso comportò una svolta nell'atteggiamento della corona nei confronti dei feudatari. Evidentemente, vedremo perché, a me pare di poter dire evidentemente, in cerca di appoggi per osteggiare prima Tancredi, poi Guglielmo III, per quello che questo nome esprime, e i suoi seguaci, Enrico pensò di crearsi una schiera di vassalli maggiori che controllassero quelli minori. Compaiono allora in Sicilia la contea di Paternò, di cui venne insignito Bartolomeus de Lucis, il quale era consanguigneo dalla casa normanna, come si sapeva da tempo, per sentito dire, ma come è stato dimostrato poi esaurientemente dal Clevis. Quella di Butera, il cui titolare fu Pagano de Parisio, e venne mantenuta quella di Malta, il cui primo titolare, Margarito da Brindisi, era stato fatto conte da Guglielmo III a quanto pare, era stato accecato. Molto probabilmente poi quella di Geraci, come ci attesta un prezioso documento del 1195 che io ho recentissimamente pubblicato traendolo dal tabulario del principe di Belmonte, come dicevo adesso al professor Campo, è un tabulario notevole, non contiene molti documenti dell'età veva, ma quelli che contiene sono estremamente significativi e io mi offro di mostrarglielo se lei verrà a Palermo. Lo stesso tabulario ci ha rivelato poi la pergamena originale di un documento che era già conosciuto solo attraverso vecchie e non sempre sicure trascrizioni. Si tratta di una donazione del conte di Petralia, Gilberto di Monforte, datato nel 1201 e che pertanto potrebbe aggiungere tanto un altro nome al novero delle contee create da Enrico VI nell'ultimo anno di regno, o che testimonierebbe la concessione da parte di Costanza e dei tutori di Federico di titoli maggiori durante la minorità di Federico stesso. Dico questo perché nel 1196, in una pergamena dell'Archivio di Stato di Palermo, invece, Gilberto non era ancora conte di Petralia e figura solo come Dominus Grateri. Evidentemente quindi il titolo di Petralia è successivo. La stessa consistenza territoriale e la provenienza giuridica della contea di Petralia mi sono ignote. perché nel documento del Monte del 1195 mi pare che Petralia o le terre di Petralia siano comprese fra le terre attribuite alla contessa Guerrera, figlia di un conte Ruggero. Dice solo che figlia comitis Ruggero e che è nipote di Guglielmo de Creone. Quindi devo pensare che de Creone fosse Guglielmo, come dice De Creone Ruggero, De Creone ovviamente la stessa Guerrera. Il feudo attribuito a Gilberto, pertanto, potrebbe derivare o da uno smembramento del dominio della stessa Guerrera, o da un ipotetico matrimonio con una donna appartenente alla casa De Creone, ma non sappiamo nulla della moglie di Gilberto, Isabella, che compare in questa donazione, che possa autorizzare una benché minima ipotesi. Gilberto veniva da una casa francese che aveva dato anche molti impiegati alla curia, fra cui Reynald e Montfort, sulla cui firma Evelyn Jamison ha eseguito un'accurata esegesi che stabilisce come questa stessa famiglia abbia dato il nome poi all'abitato di Monforte presso Messina. I conti siciliani, pertanto, di cui abbiamo menzione durante l'età fridericiana sono Gilberto di Monforte, che abbiamo già citato, Paulus de Cicala, conte di Collesano, Alduinus de Crione, comes comitatus Geraci, Pagano de Parisio, comes Butere, e inoltre i conti Alamanno de Costa ed Enrico Pescatore, la cui situazione giuridica è particolare e a cui accenniamo isolatamente. Per ognuno di questi conti io do soltanto quelle poche notizie, tanto che possano interessare e quanto devo dire che si possano avere a disposizione. Perché da queste notizie si può anche rilevare una parte dell'atteggiamento di Federico nei confronti dei feudatari maggiori. Atteggiamento che, lo dico subito, è di netta avversione e tende immediatamente alla loro eliminazione. Gilberto di Monforte era anche regio senescalco. In questa pergamena in cui compare la sua firma autografa, che è quasi commovente, nel 1201 fu tra coloro che aprirono le porte di Palermo a Marquard. Dopodiché, io non ho più nessuna notizia né della contea di Petralia né del suo conte. La devoluzione alla curia è perciò di data incerta, ma da collocare senz'altro nel periodo fridericiano. Pagano de Parisio, familiare del re nel 1209, cioè aveva fatto carriera negli anni della minorità di Federico, nel 1213 viene dichiarato ribelle e i suoi beni confiscati. Un'altra contea va via. Di Paulus de Cicala sappiamo che era già conte di Collesano nel 1203. Altre sue notizie abbiamo nel 1216. È un personaggio enigmatico. Era anche feudatario di Cacamo, che perde in modo misterioso, fratello del vescovo di Cefalù, e in una strana simbiosi con il vescovo cui faceva cenno canta Alduinus, che fu poi processato addirittura fra l'altro, per una donazione di un territorio che non si capisce bene se faccia parte della contea di Collesano o se appartenga al vescovado di Cefalù. Posteriormente, al 1216, compare nei documenti il figlio Andrea, però questi viene qualificato come Dominus Golisani. Il titolo comes non si vede più. Di Alduinus de Crione, feudo a quanto pare, ma la dignità no. Di Alduinus de Crione abbiamo notizia nel 1222. Né sappiamo con sicurezza se identificarlo con quell'Alduinus come Siscle, di cui conosciamo il testamento, stilato il 4 novembre 1234, è il testamento di cui parlavamo poc'anzi, e che è probabilmente l'ultimo conte di Gerasi durante il regno di Federico. Purtroppo questa pergamena, che è in uno stato ottimo di conservazione, ha dei buchi, si può dire l'unico buco, lì proprio dove, dopo come si iscle, doveva probabilmente seguire l'altra qualificazione. C'è il buco, quindi nessuna possibilità di lettura con nessuna tecnica. Io lo deduco da un documento che Louis Arbreol attribuisce al 1240 e che si riferisce ad Alduino quale dominus un tempo, non ricordo se dica Olim, del castello ora appartenente all'imperatore. Se non vado errato, Louis Arbreol trae questo documento dal tabularium della Cappella Palatina di Palermo. E se ne trova conferma in una inquisizio del 1247 che ci è pervenuta attraverso un transunto del 1252. Dal tenore di essa si deduce chiaramente come la contea in quell'anno fosse in potere della curia. Altre inquisizioni più tardi confortano questa deduzione. Così quelle angioine che ci sono tramandate dal Rollus Rubeus della Chiesa di Cefalù e quella del 1274, che mi pare dovuta proprio a Filippo De Catania, cioè a Filippo De Catania, a Oberto Fallamonaca in parte testimonia, doveva essere vecchissimo, pubblicata dal Garofalo proprio nella accennata edizione del Tabularium della Cappella Palatina di Palermo. In ultimo, bisogna riferire, come dicevo, per completezza di informazione, sui citati Alamanno De Costa ed Enrico Pescatore, che nei documenti si trovano qualificati rispettivamente quali comes Siracusie e comes Malte. Sostanzialmente io condivido l'opinione della Fasoli espressa in forma peraltro brevissima e a proposito del solo Alamanno, dicendo che di lui non sarebbe neanche il caso di parlare in tema di feudalità siciliana. Premetto dunque che nessuna testimonianza si ha di una sopravvivenza dell'antico feudo di Tancredi di Siracusa durante il periodo dei Guglielmi, della monarchia, e osserviamo che non vi è nessun accenno ad un feudo comitale che prendesse nome da Siracusa, neanche nel privilegio che Enrico VI concesse ai genovesi nel 1191. E con il quale Siracusa veniva data ai genovesi stessi, privilegio che del resto non ebbe mai applicazione, Enrico non diede mai Siracusa ai genovesi. Nel 1204 però, e cioè in uno dei momenti di crisi più grave per lo Stato siciliano, i genovesi, condotti da Alamanno De Costa ed Enrico Pescatore, occupano militarmente Siracusa. E Alamanno da quel momento prende a chiamarsi Dei et Regia Gratia ac communitas sianue comes Siracusae. Tale qualifica fu subita da Federico, perché la vediamo comparire in alcuni documenti fridericiani. Addirittura ne troviamo uno in cui il genovese si definisce familiaris, però nel 1220 l'imperatore privò Alamanno di Siracusa e questa città rientrò di diritto e di fatto nel demanio regio. Devo dire che gli annalisti genovesi hanno delle espressioni molto vivaci nei confronti di Federico e dicono che addirittura fu disonesto nel fare questo. Non so quanto fosse stato onesto Alamanno a arrogarsi qualità e dignità che non aveva. Quanto ad Enrico Pescatore, egli era genero di Guglielmo Grasso, comes Malte et admiratus, già nel 1197. Sarebbe il soggetto che succedette al povero Margherito Accecato nella contea di Malta. Anch'egli portò il titolo di conte di Malta e ne ebbe il possesso, ma intorno al 1223 perdette l'isola in seguito a un gesto di insubordinazione. Però, in prosieguo di tempo, quest'uomo, io ho notato, riebbe da Federico parecchi incarichi di fiducia. Quindi si direbbe che l'imperatore abbia colto una favorevole occasione, una insubordinazione più o meno grave, per applicare e perseguire la sua politica di reintegrazione del demanio che era proprio di quell'epoca. In ogni modo, la qualificazione del possesso di Malta da parte di Enrico non pare si possa inserire nel campo dei rapporti feudali. C'è un intricato rapporto politico fra Regnum Sicilie, Repubblica di Genova, Impero ed Isola di Malta. Ritengo che l'elemento perturbatore sia addirittura l'impero. Federico è anche imperatore, oltre che re di Sicilia. E no, tutto ciò non consente di dare a quella situazione di fatto una precisa definizione giuridica. Noto pure che non è che la mia suprema aspirazione sia quello di applicare un cartellino ad ogni situazione. Di fatto, però, non si può nascondere come queste situazioni fossero abnormi. Ora, in quale rapporto possiamo porre queste poche notizie con la politica dell'imperatore? Sottolineo, con questo che ho detto si chiude la descrizione delle contee siciliane. Ebbene, innanzitutto ricordare come egli sia concordemente ritenuto un continuatore dell'orientamento assoluto burocratico iniziato da Ruggero II e pertanto ostile alla feudalità. Di tale atteggiamento la prima più notevole manifestazione dovette essere una generale revoca di privilegi, il cui testo non ci è pervenuto e che si deve datare immediatamente dopo il suo rientro nel regno. Il provvedimento viene ribadito a Capua nel 1220, cioè si tratta di due provvedimenti vicinissimi, e ancora probabilmente nel 1223, fino a trovare una definitiva formulazione nel Liber Augustalis con le costituzioni cum concessiones, privilegia dignum fore credimus et si dubitatio aliqua. Io indico quei testi legislativi che hanno un rapporto diretto con il problema, in realtà ce ne sono degli altri che hanno con il problema stesso un rapporto indiretto. Lo scopo di queste norme, fino dalla prima revoca a cui ho accennato, era quello di restaurare l'autorità dello Stato non solo attraverso la rimozione degli abusi dei feudatari, ma anche sottoponendo a una verifica di ordine politico quei privilegi legittimamente ottenuti durante il regno di Enrico VI e la minorità dello stesso Federico. Sarebbe il caso, poniamo, probabilmente di Gilberto di Monforto o dello stesso Paulus de Cicala. A questa verifica crediamo di dover attribuire la scomparsa delle contee di Petralia e di Collesano. Quella invece della contea di Butera pare estranea ad essa, sia cronologicamente sia per il motivo parrebbe una ribellione. Quanto a Geraci e Paternò, è presumibile che l'estinzione dei rami maschili delle famiglie che ne erano titolari abbia fornito all'imperatore un'ottima occasione per riannettere quelle contee al demanio. Non è qui il caso di proseguire poi la storia delle singole contee, ma dico che la contea di Geraci sopravvisse a questa eclisse del tempo fridericiano e che la vediamo immediatamente dopo. Alcuni dicono addirittura che Federico abbia voluto ricostituirla in favore di uno dei Ventimiglia che avrebbe fatto sposare a una discendente femminile dell'antico casato. Io non ho trovato però alcun documento che lo comprovi. Sono delle voci di natura araldica, ma non ho un documento che lo attesti. Lei ne ha qualcuno, professore Campo? No, in questo caso gradirei conoscerlo. Una considerazione riassuntiva comunque si impone. mentre non abbiamo nessuna prova della istituzione di una contea in Sicilia da parte di Federico. Non c'è un documento che ci faccia vedere come Federico abbia istituito una contea in Sicilia. Constatiamo che alla sua morte non ne sopravvive nessuna di quelle che erano state istituite anteriormente alla sua assunzione al trono. Quella stessa di Geraci, che vedremo in mano ai Ventimiglia in epoca immediatamente successiva, pare devoluta alla Curia negli ultimi anni di regno di Federico. Ho detto poc'anzi per quali motivi e in base a quali documenti. Se dalla considerazione dei feudi comitali passiamo a quella relativa ai feudi minori, troviamo un numero ancora più piccolo di documenti. Anzi, direi che non se ne incontra nessuno che sia particolarmente significativo. La Fasoli, sulle orme del Winckelmann e dello Schäferbeutel, ha giustamente sottolineato come il fatto stesso che vi siano stati ritiri di concessioni feudali in base ai provvedimenti di verifica potrebbe essere all'origine di questa sparizione di documenti che sarebbero andati distrutti. Ciò posto, per quanto riguarda i feudi minori, possiamo riferirci soltanto ai provvedimenti imperiali che li riguardano e particolarmente alle Costituzioni, ciò al fine di conoscere il disegno di Federico in proposito. Questo io lo farò, ma non senza riservarmi di additare i limiti e il pericolo che un simile metodo comporta. È però un metodo a cui per il momento sono costretto. E dico subito che nella legislazione imperiale è evidente l'intenzione di distruggere i suffeudi già esistenti, sia che essi fossero originati da una concessione regia che sottoponesse a un feudatario maggiore alcuni feudatari minori, sia che derivassero da concessioni signorili. Preciso, è una precisazione che faccio per la signora Trombetti, visto che ne parlavamo l'altra volta. Il re può riunire alcuni feudi minori e sottoporli all'autorità di un feudatario maggiore. In questo modo nasce un suffeudo. O meglio, un feudo diventa suffeudo perché non dipenderà più direttamente dal dominus, ma dipenderà da un dominus inferiore, resterà salva sempre la fedeltà al primo concessionario. Però la catena delle suffeudazioni si può creare anche per diritto comune feudale quando un feudatario conceda in feudo una porzione del suo feudo a un altro soggetto. In questo caso è evidente che dovrebbe essere salva la fedeltà al sovrano, al primo dominus, e questo viene stabilito addirittura nelle assise di Gerusalemme. Però non mancano dei casi, mi pare che uno riguardi proprio il conte di Champagne, in cui il subvassallo neghi fedeltà al dominus del suo signore dicendo che non è suo uomo, cioè che lui non conosce altri che colui che gli ha dato il feudo. Un gruppo di quattro Constitutiones ci pare diretto immediatamente a questo fine di soppressione, mentre altre che additerò pure contribuiscono indirettamente allo scopo. Le quattro Costituzioni sono Constitutionem die memoriae, ac edicta lege, quia frequenter et post mortem baronis. Con la prima vengono dichiarate nulle, se prive di licenza regia, le alienazioni di qualsiasi natura che riguardino i feudi e le res feudales. Proibizione che, con esplicito riferimento alla non diminuibilità del servizium, era già contenuta nella Costituzione Scire Volumus, già assisa ruggeriana. Proibizione che sarebbe ancora stata ripetuta nella Costituzione ac edictali lege. Ma che la Costituzione Constitutionem vide memorie abbia voluto puntualizzare la sorte dei suffeudi, si deduce dall'inciso finale, in cui è detto che è consentita ai feudatari la locazione delle excadenzie. E con tale termine io ritengo che Federico volesse intendere quelle parti del feudo solite concedersi e che costituivano una risorsa economica per il feudatario. Dico in questo caso perché in realtà excadentia non designa una categoria ben individuata di res. Qualunque cosa che ritorni alla curia è scadenziale. Quindi non è che si possa cercare che cosa significa escadenzia in rapporto, poniamo, al suolo dell'isola. Escadenziale può essere qualunque bene. La locazione doveva avvenire sub eo annuo servizio et reddito sub quo antiquo locari consuederunt. Ma a parte il fatto che già il termine di locazione esclude qualsiasi rapporto di natura feudale, è da sottolineare come il termine servizium, che pure ho adesso citato, non possa intendersi che abnormemente al di fuori dei rapporti feudali. Perché? La Costituzione via frequenter proibiva che alcuna persona potesse obbligarsi a servizi personali nei riguardi del vassallo del sovrano. Ne conseguiva che nessun suo feudatario potesse più prestare servizio, e intendo servizio militare, al feudatario maggiore. Federico ha un'espressione fortissima in questa Costituzione: Nos autem qui sumus domini personarum, e prosegue dicendo: Non vogliamo che le persone si obblighino al servizio degli altri. È un'espressione molto forte dire che si è domini personarum. La Costituzione poi, post mortem baronis, toglieva al feudatario la possibilità di nominare egli stesso un suffeudatario qualora il suffeudo restasse vacante. Quando si aggiungano alle Costituzioni citate almeno quella comite del barone che vietava che il feudatario potesse ricevere il giuramento dei vassalli senza licenza del sovrano, e l'altra, domini a vassallis, la quale tra l'altro escludeva tassativamente la possibilità che sussistessero nel regno feudi non ligi al re, chiaramente si concluderà che Federico, come ho detto, intendesse eliminare il feudo. Tale istituto, infatti, a mio parere, costituisce la quintessenza del feudalesimo ed è all'origine della forza centrifuga che caratterizza l'ordinamento feudale, anche per la possibilità che esso dava al limite di creare rapporti cui il sovrano fosse estraneo. Ho citato poco fa il rifiuto di un feudatario francese, mi pare del conte di Champagne, al re, in quanto egli si riteneva legato solo al conte di Champagne. Parrebbe strano che nella Sicilia, che era già saldamente retta dagli Altavilla, Federico dovesse tenere simili problemi. E in effetti, e questo mi pare un passaggio molto interessante anche perché si collega a quello che abbiamo detto stamane sull'amministrazione, i documenti normanni di Sicilia non ci attestano l'esistenza di suffeudazioni in senso proprio. Esse si riscontrano solo nell'età sveva con Enrico VI. Ecco il profondo mutamento, abbiamo visto il primo mutamento, l'amministrazione, la duana diventa solo siciliana. Secondo mutamento, la feudalità rientra con Enrico VI ed è spontaneo un parallelo tra quanto ora diciamo dei suffeudi e quello che abbiamo detto a proposito delle contee. È evidente che il marito di Costanza, per accattivarsi alcuni sudditi e per acquistare potenza, deviò dalla politica che era stata tradizionale degli Altavilla e incoraggiò quelle istituzioni feudali che erano state poste al bando dai sovrani normanni. Ripeto, al tempo dei normanni mi pare che si possa dire non si trovano né contee né suffeudi in senso proprio, al tempo di Enrico VI troviamo contee e suffeudi. Poi poiché il feudo andava morendo nel resto dell'Europa, già questo è un fenomeno anacronistico. Vedremo che diventerà anacronistico ancora di più in seguito. Ricordo, e lo dico proprio con l'intenzione di dare corpo allo spirito del mio discorso che finora è stato basato solo sulle Costituziones, le subinfeudazioni di Bartolomeo de Lucis in favore della figlia Margherita e quella di Pagano de Parisio in favore di Pietro, suffeudatario del castello di Calatabiano, cioè almeno due documenti di suffeudazione in senso proprio in Sicilia esistono dell'età sveva e sono dell'età sveva, intendo Enrico VI. Ora abbiamo parlato degli estremi, le contee da un lato che potrei definire feudi maggiori e i suffeudi, cioè i feudi minori, la feudalità pura e semplice che posto occupava nel regno. A me pare che i risultati della Fasoli su questo punto debbano essere accolti pienamente, perché basandosi sulla corrispondenza dell'imperatore, soprattutto per quello che riguarda l'azione dei reintegratores feudorum, e premettendo che le notizie che abbiamo al riguardo sono estremamente scarse ed ambigue, la signorina Fasoli ha sottolineato l'interesse di Federico ad assicurarsi la prestazione del servizio militare da parte dei feudatari. Pertanto ha ricordato quei documenti che si riferiscono alla verifica delle cessioni di terre feudali incolte o alle concessioni a censo di terre feudali ricadenti nel demanio regio. La Fasoli, tuttavia, ha messo giustamente in risalto che tali documenti non ci forniscono dati concreti sul numero dei feudatari siciliani o sulla consistenza dei territori infeudati. Ella ritiene in definitiva che la maggior parte dell'isola sia rimasta demaniale e che tale situazione abbia fornito a Federico, come un tempo a Ruggero, i mezzi per la creazione di uno Stato burocratico e centralizzato. Anche se, io vorrei aggiungere, nel campo delle strutture feudali, o meglio degli organi che dovessero controllarle, l'opera dell'imperatore ha in ogni caso minore chiarezza e risultati più pallidi che non in quello dell'amministrazione finanziaria. Basterebbe citare i frequenti accenni nelle Costituzioni alla Duana Baroni, che furono all'origine della tesi del Garufi riguardo l'età normanna, cioè che la Duana Baronum fosse un istituto che dovesse controllare i feudi del regno, e mettere tali accenni a confronto con la constatazione che di questo organo nulla ci è rimasto che riguardi l'età sveva. Non saprei dire niente che riguardi la Duana Baronum nell'età sveva. Ho visto anche recentemente l'edizione nuova avvenuta adesso in Germania delle Costituzioni sulla base del manoscritto Vaticano e vedo che qualche volta è aggiunto addirittura Baronum lì dove l'edizione del Carcani non riportava neanche Baronum ma riportava solo Duana. Nel testo greco invece c'era con Baronion. Quindi veramente un'edizione critica delle Costituzioni sarebbe una cosa fondamentale. E ripeto, basterebbero questi frequenti accenni per dedurre come i progetti di riorganizzazione dell'imperatore non abbiano avuto completa attuazione. Ma tornando all'ipotesi che la Sicilia sveva sia stata in massima parte demaniale, io direi che questa ipotesi appare suggestiva e ragionevole, però è doveroso aggiungere che muove da argomenti ex silenzio. Oltre che supponendo una quasi totale demanialità dell'isola, si potrebbero giustificare certi silenzi della documentazione con la qualità giuridica dei feudi siciliani. Già ho detto come al tempo dei Normanni il feudo nell'isola fosse ben lontano dal ruolo di sgregatore che aveva avuto in altri paesi d'Europa. E sarebbe ovvio pensare che Federico seguisse l'orientamento antifeudale del suo antenato Ruggero, se tale ipotesi non fosse superflua, data la testimonianza palese delle Costituzioni. Da esse possiamo rilevare, e questa volta il dato legislativo concorda con la documentazione e con la realtà contemporanea, che tali norme, e qui cito testualmente la Fasoli, rinnovano e ridanno alle istituzioni feudali il carattere originale, accentuando l'elemento personale della fidelitas e il servizio militare, ma in realtà il nesso feudale cessava di essere bilaterale sino all'agnatico per diventare un rapporto di soggezione puro e semplice, sono sempre parole della Fasoli, un rapporto di sudditanza che assumeva il suo particolare carattere dal servizio che i feudatari erano tenuti a prestare e dal controllo a cui erano sottoposti importanti momenti della loro vita privata, matrimonio, successione, minorità, vedovanza, costituzione di dote. D'altra parte, l'esegesi del Liber Augustalis non può portare testimonianza che circa il disegno politico di Federico, non sulla realtà delle strutture feudali, e ciò vale tanto per la Sicilia quanto per il Mezzogiorno. Ho detto altrove, e qui lo ripeto, che mi parrebbe poco prudente il tentativo di ricostruire una realtà complessa attraverso le sole norme legislative. Faccio un esempio. Se dovessimo basarci sul Liber Augustalis per descrivere i poteri e i limiti dei conti siciliani, lo potremmo fare benissimo, perché la Costituzione di Federico al riguardo sono molto dettagliate. Ma quando si pensi che l'esistenza stessa delle contee in Sicilia è sottoposta ai dubbi di cui abbiamo parlato, si vedrà che sarebbe forse un tentativo vano quanto evocare un'anima mai incarnata. Non mi interessa sapere quali sono i limiti dei poteri dei conti in Sicilia, se conti in Sicilia non ce n'è. Quindi il tentativo, insomma, fare l'esegesi del Liber Augustalis per ricostruire la realtà mi pare vano. E allora io terminerei dicendo che ancora una volta una meditazione sull'opera di Federico II ci conduce al termine fino ad una contraddizione affascinante. La Fasoli ha giustamente affermato che poiché lo svevo non era un giacobino avanti lettera, egli tutelò in vari modi la dignità della classe nobile e feudale. Questo è uno strano paradosso. Le Costituziones, per quanto riguarda la feudalità, non dovettero trovare larga applicazione in Sicilia, visto che una precedente azione di carattere politico le aveva rese pressoché superflue. Esse costituirono però, e qui mi riferisco a coloro che hanno una visione dettagliata della successiva storia di Sicilia, una base per il rinascimento feudale che in Sicilia stranamente si verifica nel secolo XIV. La Sicilia non era stata mai feudale prima del 1300, nel 1300 è un paese feudale come il Regno di Gerusalemme, cioè era andata avanti prima, poi ritorna indietro. Questo rinascimento feudale trovò nel Liber Augustalis come la testimonianza di una realtà che in verità non era mai sussistita. Ecco la contraddizione. Federico II si rese come complice di una strana trasformazione. E io, in questo mi avvicino alla conclusione della prima relazione, noterei che quest'opera di Federico, tutto sommato, ci appare circondata, se non dalla malinconia, proprio dal pathos delle alterazioni del tempo, perché proprio dalle strutture imperiali, che poi paiono promanare per una degenerazione assurda, quelle schiere feudali che nel secolo XIV proprio dilanieranno quello che era stato il viridarium imperiale. Ecco. Lei ci ha dimostrato l'ultimo che in Sicilia non c'era una feudalità, ma allora c'era una aristocrazia e che Accorti aveva questa aristocrazia con il re Federico II, in che modo esiste feudalità, che cosa vuol dire? È una partecipazione a quello che chiamiamo in tedesco Herrschaftsrecht, oppure è una posizione rispettiva ai sudditi, contadini, eccetera? Che cos'è in esatto? Mi pare una domanda molto interessante, sì, e direi che la risposta è estremamente difficile, perché mentre quando siamo nel campo del diritto romano, poniamo, abbiamo alla base iura et leges, nel campo del diritto feudale ci troviamo di fronte a un'espressione impropria già alla nascita, cioè un diritto feudale tecnicamente non esisterebbe. Gli stessi libri feudorum sono una compilazione che poi ebbe riconosciuta validità per una comodità di tutti, ma in fondo è consuetudinario e si va formando in modo diverso da paese a paese. Io direi, già chiedo scusa se uscirò fuori tema, ma credo che le cose che dirò fuori della diretta tua domanda siano però pertinenti lo stesso. Ho detto poc'anzi che lo Stato feudale sarebbe quello, per esempio, di Gerusalemme, e che nego la feudalità dello Stato per la Sicilia. Poniamo, una contea resta vacante, il sovrano è obbligato a riconcederla a un feudatario. Una contea resta vacante in Sicilia, l'imperatore o il sovrano la riannette al suo demanio e non è assolutamente tenuto a concederla. Il vecchio, direi, brocardo francese, Milter sans seigneur, non si osserva in Sicilia. In uno stato feudale i soggetti entrano tutti in quella composizione piramidale che esprime al vertice il sovrano. Nello stato normanno prima e in Sicilia dopo, osserviamo invece delle strutture portanti, che sono le strutture burocratiche e che, rimanendo nel paragone architettonico, con la piramide non hanno niente a che vedere, sono gli ufficiali di cui abbiamo parlato poc'anzi. Che significato ha allora la feudalità in Sicilia, visto che una feudalità c'è? Innanzitutto, sottolineo ancora, è diversa da quella meridionale. Noi abbiamo, se io avessi dovuto parlare dei conti meridionali, il fenomeno era totalmente diverso. In Sicilia abbiamo dei signori che ricevono dei poteri delegati dal sovrano senza nessuna autonomia, perché in fondo vengono controllati continuamente dall'ufficiale regio. La stessa immunità, che sarebbe una caratteristica tipica del feudo, viene colpita a morte. Il feudatario in sostanza non è che un impiegato del sovrano, e di questo si troveranno esempi addirittura nei capitoli aragonesi di Giacomo, in cui si mettono insieme negli indirizzi i feudatari e gli altri nostri ufficiali, anche se il povero Giacomo si illudeva perché già la feudalità l'aveva sopraffatto a quel tempo. Ma in realtà era anche egli l'erede di una tradizione che vedeva nel feudatario un funzionario dello Stato, cosa che non era il conte di Giaffa, che non era il conte di Champagne, che non era, ma sono tutti i sovrani orientali, e credo che non abbia riscontro neanche nella Grecia. Mi riferisco al feudalesimo della Morea, di cui parlavamo oggi, o altro. Quindi si tratterebbe di un travestimento terminologico che, come nel caso delle concessioni alle chiese, fondamentalmente nasconde un allodio, rapporto personale. Non proprio l'alloggio, cioè come proprietà di diritto romano sulla terra. Ed è un fenomeno politico difficile da chiarire, perché mentre in questo caso il sovrano perde il servizium militare, quando i sudditi riescono a trasformare la terra in alloggio, nello stesso tempo perde anche, direi, la disponibilità patrimoniale quasi del territorio, però guadagna in soggezione, in quanto che non avrà più dei vassalli, ma avrà dei sudditi. Quello che dice la Fasoni, il rapporto diventa di sudditanza, non è più un rapporto feudale. E allora, cosa siano questi feudatari siciliani? Non lo posso esprimere con compiutezza, perché i diplomi cambiano dall'uno all'altro, però si rimane nei limiti che io in un certo modo ho cercato di indicare. Non ci troviamo di fronte ai grandi signori francesi, non ci troviamo neanche nel caso degli appannaggi dei principi reali di fronte a concessioni di quel genere, né per Goffredo a cui era stata data Siracusa, né per Tancredi stesso di cui abbiamo i diplomi. Menage stesso ha detto che era stato dato, stata data a Tancredi le Conte sans titre di Siracusa, e anche questo è fondamentale. Manca il feudo di dignità come era stato all'origine del feudalesimo. È una concessione territoriale che inclina fatalmente verso l'alloggio. Ed ecco perché io ritorno alla frase del Caen, che diceva: una feudalità non basta a fare feudale uno Stato. La feudalità siciliana poi nel periodo di Federico non esprime proprio niente. Non vengono neanche attribuiti ad alcun feudatario siciliano quei prigionieri lombardi, mi pare che ce n'è solo uno per la domina Paternionti, questo fatto l'ha sottolineato anche la Fasoli. Quindi l'isola doveva... Mentre nel Mezzogiorno risparge. Ecco, mentre nel Mezzogiorno risparge dovunque. Poi, come hai sentito, la Costituzione qui a Frequenter vietava il servizio personale, dai suffeudatari ai feudatari rimaneva ben poco. Chiedo. Ma non esisteva nell'isola di Sicilia, anche sotto il governo di Federico II, un forte gruppo di grandi proprietari di terra di cui dipendevano anche giuridicamente molti contadini? Parrebbe di sì, a giudicare da quella pergamena di cui le parlavo del 1195, che è proprio, diciamo, molto vicina a Federico. Parrebbe anche per Paulus de Cicala, parrebbe per Gilberto di Monforte, che dona dei villani al monastero di San Giorgio dei Crateri. Però io più di questi pochi elementi non ne ho altri. Certamente ci saranno stati, però in fondo noi vediamo che questa dignità comitale viene continuamente sottratta. Già una volta creata da Enrico VI viene poi a poco sempre limitata, sottratta, fino all'abolizione del titolo. E poi io penso che si debba anche tenere presente un altro fatto, cioè fino a che punto il grande proprietario terriero è finanziariamente e vorrei dire militarmente potente. Non so, perché questo è il problema. Intanto il professor Campu ci ha ricordato come Federico si appoggiasse ad un'altra classe. Sì. La sua domanda mi pare interessantissima e trova una verifica nel fatto che per quella stessa pergamena a cui poi mi riferivo, quei territori ritornano ad essere contea dopo Federico, sì, addirittura con Manfredi. Ho dato anche adesso un documento al professor Campi in questo senso, ma con Federico pare di no, o che tenda comunque. Quindi il rapporto è rimasto, ma da feudatario questo signore si è visto trasformare a poco in un signore allodiale. Questa mi parrebbe, ma ripeto, è puramente un'ipotesi, perché documenti che chiarifichino i rapporti di questi domini la parola Dominus la posso adoperare senza troppi pericoli, perché mi muovo in un terreno minato, con i loro soggetti non esistono. Comunque rimane il fatto che la feudalità, nel senso, diciamo così, classico del termine, io non la vedo, non c'è, non la vedo, per lo meno non si vede, non la vedo. Beh, diciamo però che se qualcosa ci fosse, forse verrebbe fuori, ecco. Lei, no, diciamo, voi due avete da una parte e dall'altra esplorato gli archivi siciliani, non emerge, è vero, fino a nuovo ordine, o fino a nuovo documento, diciamo meglio, non ordini, non emerge. Prego. È veramente un momento solo. Dica. Una delle prerogative dell'aristocrazia in tutto il museo era la corrispondenza sui diritti. Esiste questa cosa in Sicilia oppure no? Qualche cosa esiste prima dell'avvento della monarchia. Dopo la monarchia, a quanto pare, i giustizieri coprono, diciamo, tutte le necessità dello Stato al riguardo. Almeno per quello che risulta, ecco, con, in gran parte. Sì, dopo l'avvento della monarchia, senz'altro, pare di sì. Comunque, ganz kleine Bereiche lokal existierender Gerichtsbarkeiten gelegentlich ausgeübt haben. Aber das, was den großen Lehnsherrn des Kontinents auszeichnet, die Verfügung über die Hochgerichtsbarkeit, die ist ganz generell gestrichen und für die Justiziare monopolisiert. Das erhöht. Ich will vielleicht doch ein paar Einschränkungen machen, denn ich bin nicht ganz der Meinung, dass die Feudalität auch auf der Insel in der Zeit des Zweiten erloschen ist, wenn ich so sagen darf. Und zwar würde ich es aufhängen in der Überlegung, dass der Unterschied zwischen einem Dominat und einem Komitat im Königreich Sizilien eigentlich nur eine Frage des Ranges ist. Dass dasselbe Lehen dem einen als Komitat und dem anderen als Dominat verliehen werden kann. Dass ich glaube, dass solche Dominate über die Zeit, also der Rückkehr des Zweiten in das Königreich, fortgedauert haben. Das eine hatten Sie selber erwähnt, dieser Baron aus dem Hause den Sicala, der ja als kontinentaler Baron nach Sizilien kommt. Die stammen aus Kampanien und kommen ähnlich wie viele andere festländische Adlige mit Heinrich dem VI. Nach Sizilien. Also dieser Aufschwung der Feudalität auf Sizilien ist ein Ausdruck dieses politischen Bündnisses gewesen, dessen Grafschaft wird aufgehoben. Aber Andreas de Sicala, der ja bis zu seinem Anteil an der Verschwörung von Carpaccio eine der führenden Persönlichkeiten des Königreichs war, bleibt Dominus Colisani, und es gehören, glaube ich, sogar noch zwei andere Orte dazu, also gleichzeitig ein großer Lehnsherr auf Sizilien. Er steht wahrscheinlich, weil er damals eine hervorragende staatliche Stellung bekleidete, nicht in der Liste der sizilischen Feudatare, die Gefangene bewachen. Also ein Beispiel dafür, dass diese Liste nicht in ihren Nennwert genommen werden kann, sondern dass da auch Zufallskonstellationen beachtet werden müssen. Das Zweite, was ich zu bedenken geben möchte, ist, es ist hier die Rede gewesen von der Grafschaft Geraci Siculum. Diese Grafschaft, die ja immer verbunden gewesen ist mit der Grafschaft Ischia Maggiore, ich glaube, ihre Lücke heißt Ischia Maggioris, diese Grafschaft ist ja, und das finde ich eigentlich bemerkenswert, als territoriale Einheit auch in der Zeit, in der sie von der Krone verwaltet worden ist, nicht aufgehoben worden. Die Krone verwaltet, ich glaube, der Graf ist kurz vor 1240 gestorben, bis Herr Mazzarese Fadella hat mir hier ein Dokument dafür vorgelegt, bis 1258 dieses Gebiet als die Grafschaft Geraci zum Teil in zwei Teile geteilt, die Teile von Termini und Cefalù und die anderen Teile dieser Grafschaft weiter. Das heißt, im Rahmen des an sich provinzial geordneten Gefüges bleiben ältere Einheiten des Lehnswesens, die sich dort geformt haben, im Kern erhalten. Also der Vorstoß gegen das Lehnswesen geht eben doch nicht so weit, die Lehnsordnung prinzipiell aufzuheben. Es geschieht wohl, und da stimme ich Ihnen voll zu, dass der Kreis der Titulare nach unten abgesenkt wird. Insofern ließe sich das sogar auch von dem Festland zeigen, dass bestimmte Grafen, die 1223 ihre Grafschaft verlieren, nach dem Frieden von San Germano als Dominus in ihre Grafschaft zurückkehren dürfen. Nur sind sie dann nicht mehr Grafen, aber de facto verfügen sie als Domini über das gleiche Lehen, was sie vorher hatten. Und insofern bewahrt das Königreich Sizilien auch die feudale Basis, nicht nur die feudalen Gesetze, die es ermöglichen, dass es bereits unter Manfred zu einem, ja, ich möchte sagen, Risveglio del Feudalesimo kommt. Denn unter Manfred hat Sizilien mit einmal wieder, ich weiß es nicht ganz genau, 4, 5 oder 6 Grafschaften. Zum Teil Orte, die früher nie eine Grafschaft besessen haben. Credo di avere, io vorrei che il professore Manselli sostenesse la mia comprensione di quanto ha detto il professor Kamp, che mi pare abbia detto che rimanevano i presupposti del feudo, soprattutto che la Federico II, vero, la feudalità viene indubbiamente repressa e in un certo senso tolta di mezzo, ma che comunque è vero, ma territoriale, anche quando ci sono le differenze dei titoli, perché nelle differenze dei titoli c'è più il rispetto, se ho ben capito, più il rispetto per la persona o per alcune vicende, sì, come il Cicada di cui lei ha parlato, che essendo conte, è vero, sul territorio, essendo di origine continentale, l'Italia da Roma, del resto Bartolomeo Sudolucis, ecco, perché anche lui era più che altro calabrese. Ecco. Rimane il fatto però che per la stessa Geraci c'è evidentemente l'estinzione di una famiglia ed il passaggio ad un'altra. Pare che in questo frattempo non rimanga neanche un territorio della contea e che sia devoluta. Ecco, e poi io porrei, in relazione a quello che state discutendo, io porrei un problema. Quando un signore viene, non è più conte, ma domus, certamente ria quel territorio o gran parte di esso, ma quale potere ha il domus? È lo stesso potere di cui disponeva il comes? E questo è il punto per me, cioè dal punto di vista del c'è un problema di natura giuridica e un problema di natura politica intrecciato, cioè se io ritorno dominus di un determinato territorio, mantengo o non il potere che avevo come comes? Abbiamo parlato ora per esempio della giurisdizione. E qui ci potrebbero aiutare le costituzioni, si direbbero di no. Posta è senz'altro sì. Ich möchte dafür einige Beispiele geben. Eine der berühmtesten Grafschaften des Königreichs, lange Zeit auch in der Hand einer Familie, die mit dem Haus Altavilla eng verbunden war, war die Grafschaft Marsico. Der Graf von Marsico, Wilhelm von Marsico, war ein enger Anhänger Wilhelms III. Und ist nach dem Einmarsch Hannes VI. Entweder hingerichtet oder in deutsche Gefangenschaft abgeführt worden. Heinrich VI. Hat die Grafschaft Marsico verliehen an einem seiner Salernitaner Anhänger, an Philippus Guarna, unter dem Titel Dominus Comitatus Marsici. Später haben also Verwandte des alten Grafenhauses ich glaube, ein Schwiegersohn des alten Grafenhauses, die Grafschaft unter dem Grafentitel wiedererhalten. Wieder später ist die Grafschaft wieder vergeben worden unter dem Titel Dominus Comitatus Magnus. Und ich glaube auch, dass diese Nachfolge des Andreas de Sicala in den Grafenfunktionen oder in den Funktionen seines Vaters, der selber ein höchst umstrittener Politiker war, der also bei Friedrich II. Schon in die Verschwörung, kalabrische Adelsverschwörung von 1208-9 verwickelt war und deshalb zeitweise entsetzt war und deshalb nach 1220 keinerlei Chancen hatte, sich behaupten zu können, dass ebenfalls Andreas de Sicala die gleichen Funktionen hatte. Und ich glaube, dass man das insofern beweisen kann, dass aus dem Lehen Colesano und den damit verbundenen weiteren Lehen wurden ganz bestimmte Leistungen, und zwar darf ich nochmal zurückkommen auf die Zehntleistungen zugunsten der Kirche von Cefalù erbracht. Und diese Leistungen wurden in Zeugenverhören festgestellt, und dann hieß es, die Leistungen wurden erbracht in der Zeit des Grafen Paul und in der Zeit des Dominus Andreas. Und es wird in der Substanz kein Unterschied gemacht. Und man darf vielleicht noch hinzufügen, dass in der Zeit Karls I., die aus verständlichen Gründen durch die Mitführung ja dieses großen Gefolges französischer Ritter eine Erneuerung auch des Feudalismus auf dem Festlande war, sehr viele Orte, die bis dahin als Dominat ausgegeben worden sind, fortan als Komitat ausgegeben worden sind, wobei man höchstens den Unterschied gemacht hat, dass man bestimmte größere Orte, in der Zeit Karls I. fängt man an, die Orte zu klassifizieren nach den Gesamteinkünften, 200 Unzen pro Jahr, und wenn es, das macht eben eine Grafschaft aus, ist es zu wenig, kommt noch ein Ort mit 40 Unzen dazu, dass man diese Orten als Grafschaften und die anderen als Dominate bezeichnet, sodass ich im Ende glaube doch sagen zu dürfen, das ist ein protokollarischer Unterschied, ein Unterschied der Würde, des Respekts vor der Person oder des bewussten Wegstreichens einer Adelsschicht ist, der aber an der Substanz der Lehen, die zur Verleihung anstehen oder die in der Vakanz von der Krone verwaltet werden, nichts ändert. Ich darf vielleicht noch einen Punkt hinzufügen. Sie haben vorhin auch angeführt, die Reintegration des Feudo. Diese hatten nämlich, das sind also Kommissare, die zum Teil jährlich, zum Teil offensichtlich etwas sporadischer eingesetzt wurden, diese hatten die Aufgabe, im Auftrage der Krone anhand der vorhandenen Archivunterlagen durch das Land zu reisen und festzustellen, ob der Umfang der Lehen gemindert worden war, ob sozusagen aus den Lehen etwas heraus und das Geminderte wieder einzufordern. Auch das setzt ja letztlich voraus, dass es eine Grundsubstanz von Ländereien gegeben hat, bei denen im Prinzip vorausgesetzt war, dass sie als Lehen ausgetan wurde und dass sie als Lehen eine ganz bestimmte räumliche und zum Teil auch rechtlich fixierbare Substanz besaßen, und diese Substanz sollte erhalten bleiben. Vedete che abbiamo acceso una discussione di quelle veramente appassionanti. Il professor Campo, se ho ben capito, in pratica, io riassumo, e se non riassumo bene mi corregga, perché si tratta di concetti abbastanza complessi e quindi io che non sono un giurista di professione posso sbagliarmi. Il professor Campa in sostanza tiene a sottolineare il fatto che quando si parla di comes o di dominus comitatus si vuole sottolineare più una differenza di dignità che non una differenza di qualità di potere, se mi è permessa di adoperare questa espressione. Cioè, quello che interessa, se ben capisco il professor Camp, è il fatto che il signore viene mandato su un determinato territorio e che con questo territorio sono connessi dei determinati poteri che ineriscono a chi li tiene, sia che egli abbia il titolo di comes, sia che egli abbia il titolo di Domus Comitatus. E naturalmente ha dato poi delle indicazioni particolari che si riferiscono soprattutto alla percezione delle decime, vale a dire nel caso di questo cicada, vero, noi abbiamo delle indicazioni per le quali quello che riceveva il suo predecessore, se ho ben capito, riceve anche lui e così via. Cioè non vi è una modifica per il fatto che ci fosse il termine comes o il termine domus comitatus. Come voi vedete siamo, è vero, nel punto, direi non del dissenso, ma nel punto di due differenti, diciamo così, impostazioni e interpretazioni del problema. Quindi, non so, lei ha... Sì, io vorrei dire qualche cosa. A proposito del comitatus, io ho notato che a volte questa espressione indica un territorio geografico ben delimitato anche nel momento in cui è certo, non mi riferisco all'età fridericiana, che questo territorio non sia infeudato perché è ritornato alla Giulia. Anche l'espressione, per esempio, partium cesalugi et termarum, oppure comitatus fugiraci, compare in momenti in cui il conte di Geraci non c'era ed era piuttosto stata. Quindi il fatto che si dica, per esempio, dominus comitatus, facciamo un esempio qualunque, di Lazzani, potremmo dire per uscire fuori dalla Sicilia e non fare un esempio, potrebbe semplicemente indicare un ambito geografico e non semplicemente che ci sia una dignità di conte, sia pure nascosta. Inoltre, mi pare che le Costituziones si riferiscono al comes e al varo con differenti, se non prerogative, a volte addirittura responsabilità. Ci sono dei casi, per esempio quello in cui il feudatario si sia reso tediosus a quelli che amministrano giustizia, in cui si dovranno pagare delle multe differenziate e il comes pagherà più tanto del varo quanto del miles. In più, mi domando, e la mia domanda per conto mio rimane senza risposta e lo so in partenza, è proprio un araldista Federico II che si preoccupa che il figlio di Paulus de Cicala non sia più comes, ma sia solo dominus? E questo sfrondarsi degli altri titoli della casa de Cicala, come era per esempio Caccamo, che viene data alla chiesa di Palermo, non dimostrano che c'è tutta una politica che osteggia queste grandi famiglie? Mi pare che manchino delle testimonianze per poter dirimere questo punto diverso di vista. Casa di Cicala poi addirittura scompare per quanto riguarda la Sicilia, direi nel nulla. E mentre faccio tesoro delle osservazioni del professor Kant che alimentano un mio dubbio fondamentale, cioè che si possa trattare di una semplice decorazione araldica, rimango pure dell'idea che la questione non possa essere facilmente conclusa. Sì, adesso... Oder nur Dominus, denn wie ist in Region der Begriff Dominus ein Problem? Und ob es ein Problem existiert, ob jemand durch die Übernahme eines Komitatus zum Kommen geworden ist, was er durchaus auch möglich ist. Also in Sizilien sind die Lehnsverhältnisse verhältnismäßig formalisiert. Ein Komitatus kann nur entstehen durch eine königliche Verleihung und durch einen königlichen Rechtsakt, und der setzt weiter voraus, dass der Comes auch das Recht zur Assekuration der Vasallen erhält. Ohne dies ist die Existenz eines Comes nicht möglich. Es ist allerdings, wenn man die gesamte Geschichte des normannisch-taufischen Reiches betrachtet, immer sehr auffällig, dass die Zahl der Komitate zunimmt in dem Augenblick, wo die Monarchie schwach ist. Roger hat sehr wenige Komitate geschaffen. Im Augenblick der Minorität Wilhelms II., als die Regentin Margarete entsteht, Da schreibt der Falcandus, es wurden in einem Jahr 8 neue Grafschaften errichtet. Und das Gleiche vollzieht sich unter Tancred, der vergleichsweise großzügig Grafentitel verleiht, und unter Heinrich dem VI. Noch einmal. Das zweite, Ihre eigentliche Frage zieht hier auf den Begriff des Dominus. Und da glaube ich noch sagen zu können, dass der Begriff Dominus und Dominator, der übrigens schon in der allerfrühesten Normannenzeit vorkommt, denn der einer der ersten Titel ist, den einzelne normannische Fürsten für ihre Herrschaft über einzelne Orte, Dominator Gravinensium oder Dominator Juvenatii oder wie sie sich auch immer nennen, zur Bezeichnung ihrer Herrschaft benutzen. Ich will noch ein Beispiel dafür nennen, auch aus der Zeit Friedrichs II. Es gehört ja eigentlich zu den großen Merkwürdigkeiten dieser Regierung, dass es Friedrich II. Gelungen ist, einen Teil des zyprischen Adels nach Sizilien zu verpflanzen und in diesem zyprischen Adel so etwas wie ein neues Element, ich möchte ruhig sagen, in der Feudalität des Königreichs zu gewinnen. Und einer der prominentesten dieser Adligen ist der spätere Admiral des Königreichs, Philipp Schinar gewesen. Dieser Philipp Schinar ist natürlich auch von Friedrich II. Auch nach San Germano noch mit Lehen bedacht worden. Und er hat als Hauptlehen bekommen den Ort Conversano und den Ort Ruvo. Der Ort Ruvo war normalerweise ein Dominat, der Ort Conversano war normalerweise eine Grafschaft, noch in den Anfängen der Regierungszeit, der kaiserlichen Regierungszeit Friedrich II. Philipp Schinar hat ihn bekommen als Dominus Conversani. Aber die Leute, die in den beiden Orten, die ihm also unterstanden wirkten, pflegten sich zu nennen die Judices Terrarum Domini Amirati, und die Urkunden wurden zum Teil datiert Anno Dominationis Philippi Chinari. Also sodass in der Urkundenformel die Dominatsfunktion ausdrücklich festhalten war. Es ist eine ganz präzise Vorstellung. Der Ort Conversano mit seinem Zubehör ist eine ganz präzise feudale Einheit. Wir müssen da sogar noch einen Schritt weitergehen. In der Zeit Friedrichs II. Sind Lehen miteinander verbunden oder voneinander getrennt worden. Zu diesen Trennungen gehörte etwa, dass zu den Lehen Conversano noch der Ort Lavello gehörte. Der war mit ihm normalerweise verknüpft und es bedurfte eines besonderen herrscherlichen Aktes, den Ort Lavello gleichsam aus der Verbindung mit der alten Grafschaft Conversano zu lösen und Lavello zu einer Demanialstadt zu machen. Also insofern glaube ich, dass dem Comitatus ein ganz präziser geografischer Begriff entspricht und dem Dominatus genauso. Ich möchte zu Marcionatus oder Comitatus. Das Gebiet wird als Terra bezeichnet. Das Gebiet wird häufig als Terra. Senza che glielo avessimo chiesto, il professor Camp ci ha aggiunto agli elementi di cui noi discutevamo, e cioè del mondo siciliano, ci ha aggiunto anche tutta una serie di indicazioni relative alla Puglia e a quel feudalesimo del Mezzogiorno d'Italia che era un po' il grande assente, ma che era l'ombra che affiancava i nostri in fondo poi un po' anch'essi umbrati, i signori feudali della Sicilia. Quindi mi pare che il grosso problema è Federico II e la feudalità. E forse non è male a questo punto ricordare che noi abbiamo parlato di conti, abbiamo parlato di problemi della feudalità, abbiamo parlato di un personaggio come Lalamanno da Costa, che era in realtà poi Genova. Dietro, non dobbiamo dimenticare che nella situazione stranissima di Alamanno da Costa era in realtà Genova. Alamanno da Costa era un uomo che rappresentava Genova e quindi rientra in tutta una serie di atteggiamenti politici di Federico II verso Genova. I personaggi potenti nel regno a Federico davano fastidio. Non è un caso che poco dopo di essere entrato nel regno ha dovuto combattere una vera e propria guerra con un altro conte, uno dei conti, i grandi conti dell'Italia meridionale, quelli dei confini del regno, come Pietro da Celano. E quindi è un uomo il quale assolutamente grandi poteri feudali nel regno, come può, li elimina. In fondo la contea di Celano viene praticamente tolta di mezzo. Gli abitanti vengono deportati, il conte è obbligato a fuggire, la contea in sostanza viene soppressa. Vi è una, diciamo così, una fondamentale, non diciamo ostilità, ma una fondamentale diffidenza di Federico II verso la grande feudalità. E del resto, se noi prendiamo alcune delle lettere di Federico II ad alcuni di questi signori feudali, c'è qualcuno, io adesso non ricordo bene quale, ce n'è una per esempio alla quale a proposito di uno di questi signori feudali rivolge rimproveri come si rivolgerebbero a un cattivo amministratore: tu non coltivi bene le tue terre, tu non curi i tuoi sudditi, sei un cattivo signore feudale. E quasi per certi toni ricorda le lettere che poi rivolge a uno dei suoi fattori che teneva male una delle massarie regie. Abbiamo quindi un atteggiamento, diciamo, di in parte di un atteggiamento ostile a questa feudalità che in parte, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, ne aveva creato grossi problemi. Quindi le diffidenze, le difficoltà giuridiche che emergono nel tentativo di prendere, come dire, di toccare questi conti, nasce anche dal fatto che quando poteva Federico II indeboliva i conti il più che poteva, in Sicilia in maniera più decisa, ma anche nel Mezzogiorno come gli riusciva. Prego. Not just the home is the world an ancient vision about nothing of the Russian has to be the provider. This is the life in your parents to make sound because not of the field, but the home is not in the law as the dominus in the head to the view of. Ich würde die Frage glatt mit Nein beantworten. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass sind beides direkte Lehnsherren, also Inhaber, wenn ich mal so sagen darf, von Kronlehen, Tenentes in Capite. Insofern unterscheiden sie sich in keiner Weise. Aber es ist eben für Friedrich II. Außerordentlich bezeichnend, dass er nach Möglichkeit keine Komitees ernannt hat. Ich meine, was ich nicht sagen kann, und das wäre immerhin, also das kann ich einfach im Moment, auch weil ich der Sache nicht nachgegangen bin, nicht sagen, ob in der erbrechtlichen Regelung für den Comes bessere Bedingungen vorhanden waren als für den Dominus. Gleichsam in der Rückrufbarkeit des Lehens, das kann ich nicht sagen. Aber mit Sicherheit kann ich sagen, dass Friedrich II. Auch in der Zeit nach 1220 und nach dem Erlass der Konstitutionen noch alte Grafschaften verliehen hat, allerdings in der Regel unter dem Titel eines Dominus. Und wenn er sie verliehen hat, hat er sie verliehen an Leute, die nicht jenem Altadel entstammten, gegen den er seit 1220 zum Teil ja militärisch und mit großer Hinterlist gekämpft hatte. Aber zum Beispiel jenem zyprischen Neuadel, dem hat er alte Grafschaften, ich habe eben Conversano genannt, ich könnte auch die alte Grafschaft Tricarico nennen, die hat er ihnen verliehen, aber immer unter dem etwas unterliegenden Titel Dominus, aber in der Rechtsstellung dieses Dominus in dem Komitatsbezirk hat sich nichts geändert und an dem Rechtsverhältnis zum König, in dem Sinne, dass es ein direktes Kronlehen war, auch nicht. Der einzige Punkt, wo man noch nachfragen müsste, was ich nicht kann, ist die Frage der erbrechtlichen Verfügbarkeit, der Rückrufbarkeit des Lehens. Die kann durchaus gemindert gewesen sein. È una precisazione che vorrei che non sfuggisse ai nostri amici italiani, cioè il professor Campa ha tenuto a sottolineare che, soprattutto nell'Italia meridionale, sia dopo il 1220, cioè dopo la Costituzione, la Dieta di Capua, sia anche dopo l'emanazione delle Costituzioni, ha continuato ad attribuire ancora delle contee precedenti a personaggi che di volta in volta riteneva necessario, senza preoccuparsi che appartenessero a quelle vecchie e grandi famiglie contro le quali del resto aveva quella diffidenza di cui orora io parlavo. Tanto che poi c'è stato questo tentativo, che sarebbe interessante approfondire, perché il problema dei rapporti col Regno di Gerusalemme è vero, ed è il rapporto con la feudalità di Cipro, che in qualche modo viene tentata, è vero, di entrare nel sistemare nel regno, ecco. Ma non in Sicilia. Si parla dell'Italia meridionale, il professor Campo ha precisato, è vero, non si tratta di Gravina, di Convertano, Convertano è una zona, per chi non abbia presente la storia normanna, Conversano dal tempo dei primi insediamenti normanni fino alla fine è uno dei punti nevralgici, come poi diventa il Principato di Taranto, ma questo è un altro problema. Prego. Io vorrei fare una domanda relativa alla monopolizzazione statale di uno dei diritti signorili fondamentali, cioè la giurisprudenza, la giurisdizione. Io ho sostenuto che lo Stato ha monopolizzato questo diritto, ma dopo 1220 ci dovrebbe essere una vera ondata di giustiziari, è un fatto che si osserva o no? E la seconda domanda sarebbe questa, questa mattina invece ha dimostrato veramente come la classe dei mercanti ha preso i posti di amministrazione finanziaria. Dell'amministrazione finanziaria si osserva lo stesso fenomeno per l'amministrazione giuridica, e cioè le città diventano giustizieri, no, che nel secolo XIII, in Sicilia si incontrano giudices sempre delle città. E poi un'altra domanda, giudices dell'Open Land ci sono? Ihre erste Frage ist mir nicht mehr so ganz präsent, über dem Nachdenken über die zweite. Das ist die Monopolisierung, da wir sprechen, es müssen auf 1220, jetzt an der Seite 1231, eine Masse von Leuten, also, das ist gar nicht der Fall gewesen, denn die Rechtsprechung, vor allem die Verfassung der Rechtsprechung in der provinzialen Ordnung, ist letztlich bereits von Robert II. Eingefädelt worden. Und sie gewinnt in der Zeit der beiden Könige Wilhelm insofern eine feste Struktur, als den Justiziaren nach den etwas lockeren Bezirken, die sie unter Robert II. Haben, praktisch feste Provinzen zugeteilt werden. Jene Provinzen, die ich in meinem Vortrag heute Morgen die Justiziariate genannt habe, die über das Königreich von Teil 11 gewesen sind, das schwankt ein wenig, das spielt aber keine große Rolle. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass seit 1220 eben die Aktivität dieser Justiziare in fast allen Provinzen gleichermaßen dokumentiert werden kann. Es sind zunächst bisweilen zwei, in der Regel bürgert es sich später ein, dass es immer einer ist und dass er relativ häufig abgelöst worden ist. Diese Justiziare, und damit bin ich, glaube ich, bei Ihrer zweiten Frage, werden entnommen dem ritterlichen Adel. Und zwar gehören sie dem ritterlichen Adel mit ein oder zwei Ausnahmen in der Zeit vor 1220, die ich also in diesem Zusammenhang, glaube ich, nicht überbewerten darf, ganz regelmäßig entnommen. Sie gehören also dem, ich habe es mal den ritterlichen Dienstadel genannt, an. Und im Allgemeinen sind es Leute, die also die ritterliche Ausbildung erfahren haben, keine juristische Ausbildung, und die ganz häufig auch über eigene Lehen verfügen und für diese Lehen militärdienstpflichtig sind. Nun erklärt sich das natürlich sehr leicht dadurch, dass der Justiziar nicht nur ein Rechtsprechungsorgan ist, sondern zugleich sozusagen das Organ ist, durch das der Staat die militärischen Lehnsdienste, nicht die nicht-militärischen Lehnsdienste, sich erschließt. Der Justiziar ist im Grunde auch der Führer des Aufgebots seiner Justiziariatsprovinz, falls das in der Justiziariatsprovinz aufgeboten wird. Auf diese Justiziare sozusagen monopolisiert der Staat nicht die gesamte Rechtsprechung, aber die Rechtsprechung, die in Königreich Sizilien vielleicht als die Kriminalgerichtsbarkeit bezeichnet werden kann. Es gelangt, in bestimmten Bereichen bleibt sie außerhalb. Das sind einfach historische Vorgaben, die nicht einfach ausgelöscht werden können. Zum Beispiel gehört dazu das Kirchenterritorium von Catania, das von Monreale, von Chieti und einigen Abruzzenbistümern. Das sind einfach Sonderfälle, die sehr viel schwieriger zu beseitigen waren als durch ein einfaches Revokationsgebot, weil die eben auf Privilegien Robert II. Oder Wilhelms II. Oder noch viel, zum Teil ja auch solchen der karolingischen Nachfolger beruhten. In Catania ist das dann der Rückruf 1239 doch erfolgt, aber in der Substanz sozusagen spielen diese Pfade keine Rolle. Es ist andererseits eines richtig, dass die Justiziare seit etwa 1220 vermehrt auftreten mit einem zugeordneten Richter. Und dass für dieses Amt dieser beigeordneten Richter, also der sogenannte Judex in Justiciaratu, und dann Terrae Laboris oder wie das auch immer heißt, dass dieser Judex zum Teil erwählt wird aus bevorzugten Stadtrichtern, also etwa aus Capua oder aus Kalabrien, aus Cosenza, dass sich aber unter diesen Judices doch auch sozusagen am Anfang ihrer Karriere einige jener Richter finden, die dann am Großhofgericht, das heißt also in der Lenkung der Gesamtjurisdiktion und auch der Steuerung der Rechtsinterpretation eine zentrale Rolle gespielt haben. Ich will ja nur ein Beispiel nennen, dass einer der berühmtesten Großhofrichter, Thaddäus von Cessa, seine Karriere begonnen hat, wo er zuerst also für uns fassbar wird, als zugeordneter Richter der Justiziare der Terra di Lavoro. Also da ist das, was die Ondata dei Justizieri nennen, vielleicht zu bemerken, dass im Umkreis der Justiziare, der adligen Justiziare, der Bedarf an ausgebildeten Juristen wirken wird. Der Justiziar, vielleicht wenn auf die Rechtsprechung im offenen Lande noch zu sprechen kommen darf, ist verpflichtet, und das sagen ja sogar die Konstitutionen sehr deutlich, in seinem Justiziaratsbezirk umherzureisen und an allen Orten in einer gewissen Regelmäßigkeit Gerichtstage abzuhalten. Das lässt sich durch die erhaltenen Urkunden wunderbar dokumentieren, vor allem wenn in einem Prozess gezeigt wird, wie die Klage in Sulmona eingereicht wird, wie er dann nach Pescara zieht, um sozusagen die ersten Zeugen zu hören, und wie er dann in der ganzen Provinz schrittweise umherreist, dass die Allpräsenz des Justiziars in der ganzen Provinz gesichert ist. L'integrazione che ha dato adesso il professor Campa è molto, direi, molto importante e molto interessante. La domanda era una domanda anch'essa di estremo interesse, anche se non tocca o appena, cioè tocca per una certa parte soltanto l'isola di Sicilia e piuttosto invece la parte continentale del regno stesso. La domanda era se dunque i giustizieri hanno questa importanza che è stata sottolineata, dopo il 1220 ci sarebbe dovuta essere una, come dire, una esplosione di giustizieri. E questi giustizieri da che classe sociale provenivano, e il professor Camp ha chiarito che i giustizieri erano distribuiti secondo una, come dire, impostazione geografico-amministrativa, qua possiamo adoperare un'espressione un po' moderna in questo campo, che è stato più tecnicamente rigoroso. Comunque erano distribuiti secondo delle circoscrizioni amministrative, quindi non potevano essere, per così dire, né di più né di meno. Erano, ce ne sono stati comunque, sono testimoniati dovunque, e in gran parte vengono dalla classe nobiliare, cavalleresca, e hanno naturalmente obblighi militari. Però per l'esercizio pratico della giustizia avevano dei giudici, diciamo, possiamo chiamare dei giudici periti, che molte volte hanno, dall'esercizio della giustizia, sotto gli ordini di un giustizierato, di un giustiziere, hanno cominciato la loro carriera. E non è stato, mi fa piacere che in questo ambito sia comparso quello che forse è il più grande assente di questi giorni, vale a dire Taddeo da Sessa, il quale proprio con le funzioni di giudice della terra del lavoro ha iniziato poi la sua sfolgorante carriera. Come voi vedete, lo stato di Federico II ci si va animando un po' da tutte le parti, perché siamo partiti dall'amministrazione finanziaria, abbiamo toccato i feudatari in Sicilia, che poi hanno posto il problema del feudalesimo dell'Italia meridionale, stiamo rivenendo ai problemi dell'amministrazione, non più finanziaria, ma della giustizia. Mi pare che in sostanza la nostra discussione, è vero, anche grazie alle vostre domande, è vero, si viene via via arricchendo. Direi che questo stato di Federico II ci è sempre più chiaro grazie, è vero, alla competenza e alla padronanza eccezionale della documentazione che ci hanno mostrato i due colleghi, appunto alla mia destra e alla mia sinistra, in una, è vero, vorrei dire, gara di competenza davvero in molti casi sbalorditiva. E di questo io proprio sento di dovervi ringraziare prima del ringraziamento finale di questa sera. Qualche altro problema? Sì, sì. Quello che mi sta sentendo quando ha detto il professor Mattarelli, che era un discussore, in Sicilia, dentro Federico II, continua ad esistere un certo tipo di aristocrazia che non possiamo, secondo quello che ha detto il professor Mattarelli, quindi è più dal futuro. Però certo dovevano esistere delle famiglie con dei notevoli possibilità di fondiare. Poi io vorrei sapere se attraverso i documenti privati è possibile avere dei figli su quelli che erano i contratti che legavano coloro che lavoravano la terra a questi grandi, a questi personaggi che sono dei dell'aristocrazia. Non c'è dubbio che una ricerca del genere andrebbe condotta negli archivi privati esistenti. L'unico che sia ancora esistente e che si possa riferire anche all'epoca sveva è questo di cui ho parlato io oggi, il tabulario Belmonte. Belmonte, che è una famiglia esistente, il cui attuale capo è una persona molto simpatica e molto aperta alla cultura, e l'erede, attraverso lui ha un cognome francese, ma attraverso Casa Mondroi, erede di Casa Ventimiglia, è proprio l'erede dei Geraci, dei conti di Geraci, e questi documenti che ho visto io non sono mai usciti dalla stessa famiglia per 800 anni. Però, per quello che io ho potuto vedere fino ad ora, contratti che appartengono alla sfera del diritto privato e che si riferiscano all'età normanna o all'età sveva, non ne ho visto. Forse ce n'è in questo tabulario uno per l'età normanna, ma non ne sono sicuro perché devo guardarlo più attentamente. Per l'età sveva mi pare che non ce ne siano. I primi documenti riguardano la primissima età aragonese, forse qualcuno di Manfredi, non ne sono certo, ma certamente non l'età di Federico II. Qui sottolineo ancora una cosa che il professor Camp ha detto e che mi piace ripetere. Parrebbe che ci sia come una immigrazione meridionale in Sicilia. In Sicilia viene non solo Paulus de Citala, che è Domus Golisani, ma il fratello Johannes, è vescovo di Cefalù. In quali rapporti sono i Cicala con l'imperatore? Pagano grandi amici, ma Paolo viene cacciato via da Caccamo, a quanto pare. Il vescovo scomunica l'imperatore perché gli ha tolto le tombe da Cefalù, mandando l'ambasciatore in Oriente. Ho ripetuto pure che il Clevitz ha dimostrato la consanguinità di Bartolomeus de Lucis, feudatario anch'egli dell'Italia meridionale. Addirittura alcuni di questi feudatari che ho nominato, e che per brevità ho messo alcune notizie, sono conti di Avellino. Il conte di Butera è conte di Avellino e porta due titoli, così come il comes Golisani era comes Alifie e a volte porta. Quindi proprio c'è questo fenomeno di osmosi che abbiamo visto anche nell'amministrazione e che porta, e Paolo fra l'altro era rege private masnede, lo cito come nel documento Magister Comestabulus, ma che cosa significhi? Non lo sapeva lui Arbreoli, masnede private, masnede Magister Comestabulus, non lo sapeva lui Arbreoli, non lo so neanche io. Che cosa sia, perché è diverso dal connestabile, compare soltanto in due documenti questa dizione. È un titolo comune alla corte dei Normanni, che significa lo stesso, ma come il connestabulo, e col connestabulo regio, a Palermo per la guardia privata del re. Ma mi pare che coincida con un altro connestabile che non è quello della regia privata. Il titolo ha una certa tradizione. Ecco, e io confesso che questo fatto invece per la corte normanna lo ignoravo. Comunque, ripeto, c'è questa immigrazione di feudatari meridionali. Questi feudatari meridionali che potrebbero portare, se si accetta la mia tesi, un contagio. A poco si direbbe che vengano estromessi, e certamente l'argomento della Fasoli, che io stesso ho criticato di muovere ex silenzio, una sua validità ce l'ha. Nessun personaggio siciliano, che sia feudatario, ricopre o grandi carichi o comunque svolge un'attività politica importante durante il regno di Federico II. Direi che forse nessun grande feudatario. Sì, perciò, ma siciliano, visto che il mio punto profaretico era questo. Io penso che, secondo il nostro proposito, e anche un po' per premiare la nostra diligenza di oggi, possiamo, devo dire, un po' a malincuore interrompere la nostra discussione. Direi che, se non mi inganno, la giornata di oggi è stata, senza levare il merito a nessuna delle precedenti, è stata per certi aspetti una delle più ricche di curiosità. Abbiamo toccato dei problemi che pungono da tutte le parti, perché ognuno di noi, in ognuna delle nostre esperienze, si trova davanti questa specie di, come dovrei dire, di corpo fantomatico che è diventato il feudalesimo, di cui troviamo sempre delle tracce, ma che di luogo in luogo diventa sempre più difficile a determinare e a sfuggire. Quando forse fra qualche decennio si dovrà caratterizzare un aspetto della medievistica del nostro tempo, si dirà che è la medievistica tormentata dal fantasma, col corpo però, del feudalesimo, un fantasma che, come voi vedete, anche nel mezzogiorno d'Italia, in un regno che noi diciamo centralizzato, dove il sovrano vedeva tutto, sapeva tutto, controllava tutto, a un bel momento ci accorgiamo che in Sicilia è una cosa, nell'Italia meridionale è diversa, ha delle cose identiche, dei personaggi vanno da una parte all'altra, ma in realtà poi vero, ci domandiamo, persino ci siamo domandati più volte, ma quale potere effettivo aveva, la giurisdizione qual era o quale non era, il servizio che rendeva qual era o quale non era. Cioè, noi credo che, e oggi, possiamo già dire domani, lasciandoci, torneremo a casa, questo credo che possiamo in coscienza dirlo, contenti di averci, di esserci arricchiti di qualche cosa che in fondo è soprattutto non più la complessità di un uomo qual era Federico II, ma di una complessità di un uomo che viveva in una realtà di una complessità straordinaria. Quello che noi chiamiamo l'eredità araba o l'eredità normanna o bizantina o degli Staufer, eredità culturale, eredità politica, eredità giuridica, in questi giorni ci si è venuta precisando. Quando stamani abbiamo sentito, è vero, i titoli dei vari uffici che erano nello stesso tempo in latino, in greco, in arabo, questa eredità plurima l'abbiamo toccata con mano quando abbiamo seguito e visto gli elementi prosopografici che ci sono venuti per alcuni lati dal professor Camp, per altri lati dal professor Massarese Fardella. Ebbene, questa prosopografia ci ha permesso di toccare delle classi sociali, degli elementi di vita concreta. I giustizieri appartenevano alla classe cavalleresco feudale, l'amministrazione finanziaria si appoggiava a mercanti e ad uomini d'affari, e la feudalità aveva o non aveva delle forme e degli aspetti in Sicilia o fuori della Sicilia. Cioè la complessità non è più una parola ma una realtà concreta. Io credo che insieme a tutti i colleghi che ci hanno preceduto, oggi è più che mai d'obbligo ringraziare i nostri due colleghi, il professor Camp da una parte per la sua lezione di ieri e per quella di stamattina, il professor Massarese Fardella per quella di stamattina e per quella di oggi pomeriggio, e devo dire ringraziamo anche per quello che posso a titolo personale, ma credo di poterlo dire anche a nome dell'istituto, come del resto nei giorni precedenti. Io sono lieto di ringraziare tutti voi, perché è per voi che questo nostro seminario non è una successione di lezioni, come non voleva essere, ma è una serie di problemi che a dei giovani, e dei giovani in pieno fervore di attività scientifica, è rivolto e dai quali vuole ricevere stimolo e progresso. Direi che proprio oggi, come nei giorni passati, dal nostro dibattito un progresso si è realizzato, e di questo amo e devo ringraziare tutti i presenti, e giovani e meno giovani. Grazie e a domattina, allora.